Con noi Antonia Harper delle Cardamommo che saranno al Quirinetta a Roma il prossimo 23 marzo. Benvenuta Ciao. Antonia. Ciao, grazie. Ciao Federico. Allora, ci racconti per chi non conoscesse il gruppo, cosa sono Cardamommo? Allora, le Cardamomò sono un gruppo che nasce nel 2010 come trio femminile, composto da strumenti un po' particolari come gli organetti e il violino, strumenti acustici. Poi piano piano siamo cresciuti, si è aggiunto Ivan con chitarra e fiati e abbiamo messo su un progetto sempre ispirato a, diciamo, una musica acustica e retro che si è, diciamo, ingrandito e è andato verso l'uso di generi più svariati e anche di musica per il teatro. Quindi abbiamo creato degli spettacoli musicali e adesso siamo al nostro nuovo album che è prodotto da Bassa Fedeltà. E lo presenteremo con uno spettacolo appunto che si chiama Vive la Vie come l'album al Sì, al Quirinetta. Quirinetta. Senti, siete in pianta stabile da qualche parte o siete sempre nomadi? Siamo in pianta stabile a Roma, Sì. ci siamo incontrati a Roma e viviamo più o meno tutti qui, però sì, ovviamente girando un po' in lungo e largo per l'Italia e anche in giro per prova, per il mondo, quando ci capita. Antonia, quali sono stati e quali sono i vostri riferimenti musicali? Allora, come diciamo, proprio da dove siamo partiti da quando eravamo giovani, proprio giovani giovani, eravamo tutte appassionate dico appassionate perché eravamo appunto noi femmine, del favoloso mondo di Amélie e quindi di Jan Tiersen, di tutta quella musica un po' dal gusto francese retro, tipica con gli organetti e il violino. Poi da lì ci siamo anche fatti influenzare da altri autori, da altre musiche. Io personalmente sono appassionata di folk americano, poi c'è un po' di balcanico, quindi ovviamente Bregovic, e abbiamo creato una commistione di tutti questi stili. Oh, immagino che l'attività concertistica sia fondamentale nella vostra attività. Sì, per noi il live, diciamo, è un momento fondamentale perché oltre al fatto di suonare insieme e di mettere, adesso stiamo proponendo dei pezzi proprio composti nostri, originali, infatti l'album è tutto di brani originali, però è il discorso proprio di creare un'atmosfera che viene un po' dal fatto che tutti e quattro siamo amici e molto legati. E anche dalla relazione con il nostro pubblico e con le persone, con il nostro seguito. Quindi live è un momento magico per noi. Senti, l'incontro con il teatro per questa performance teatrale. Il contro teatro è avvenuto perché in realtà ognuno di noi ha un'esperienza anche come nel teatro, sia come performer che come musicista, diciamo come esperienza chi è attore, chi è performer. E quindi questa cosa l'abbiamo portata come, diciamo, un valore aggiunto al nostro lavoro musicale. E per quanto riguarda Vive la Vie, essendo comunque un concept, abbiamo deciso di creare una situazione dove c'è sicuramente dei racconti, ma anche degli aspetti più scenografici e degli aspetti multimediali, come per esempio le proiezioni. E quindi sarà, diciamo, un po' un'opera. E per questo il Quirinetta si presta benissimo perché non è solo un locale, ma è un teatro. Senti, si tratta della prima performance di lancio del disco, è previsto un tour, dici un po'. Sì, questo diciamo il 23 marzo al Quirinetta sarà un'anteprima perché il disco esce ufficialmente il 6 aprile. Poi saremo al Teatro del Lido di Ostia, il 6 aprile stesso, che è un venerdì, e abbiamo un tour che parte principalmente a maggio, dove andremo sia al sud, a Napoli, Caserta e Foggia, e poi saremo al nord, a Bologna, al Mercato Sonato, a Padova e Venezia. Quindi poi per tutti i dettagli del tour ovviamente basta vedere la pagina Facebook e il sito. Benissimo, allora i riferimenti ce li hai dati, quelli internet. Antonia, io ti ringrazio, un abbraccio e Grazie a un te, Federico. in bocca al lupo. Crepi, ci vediamo il 23. Ciao. Ciao, grazie.